Con Mariangela Salafia di B17 per parlare della mostra collettiva dal titolo Permanente ma mutevole a Roma all'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie con vernissage il 17 dicembre. Mariangela, ben trovata. Ciao, ben trovato. Buonasera. Partiamo dal progetto B17. Raccontaci un po'. Allora, il progetto B17 è nato qualche anno fa da un'idea mia e di un'illustratrice, Cristiana Cerretti, quando di illustrazione parlavano più o meno soltanto gli illustratori. E abbiamo messo su un'associazione di e per illustratori per far capire come quelle opere magnifiche che di solito vediamo nei libri possono essere dei veri e propri quadri ed essere apprezzati in originale e magari acquistati e collezionati. Poi si è evoluto e da un anno è diventato un progetto web molto più dinamico, con profili di illustratori, una galleria online e una serie di gallerie che ospitano il progetto, di cui la più importante al momento è appunto l'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, che ospiterà la permanente ma mutevole, che rappresenta un po' il vecchio progetto che avevamo con B17 ed era un'esposizione che vede i partecipi più grandi illustratori italiani ma anche internazionali con una selezione di opere il più possibile contemporanee, una roba fresca, in ogni senso fresca. Al momento quante persone fanno parte del progetto B17? Allora, il progetto B17 ha visto la partecipazione di circa una sessantina di illustratori negli anni, di cui ancora, insomma, sono rappresentati credo circa 50 e forse più di 20 anche presenti in questa splendida mostra. E quante saranno le opere esposte? Oddio, sai che non le ho contate le opere Di esposte? quanti autori e autrici, comunque? Saranno sicuramente alcuni dei nostri più affezionati, fra cui Tonello Silverini, Luca Ralli, abbiamo Alessandro Ferraro, naturalmente anche Cristiana Cerretti, Arianna Papini, c'è Beppe Giacobbe, c'è Pierluigi Longo. La nostra collezione spazia dall'illustrazione per l'infanzia all'illustrazione editoriale o quelle per copertine, per cui l'interesse è molto vario, dalle cose proprio super bambini ad un'illustrazione che va verso la pittura, quindi è assolutamente appassionante e per gli occhi di tutti, ecco. Sì. Questa è poi la volontà di B17. Ah, la mostra durerà dal 17 fino al Fino a sempre, praticamente permanente. è una collettiva sempre allestita all'interno dell'Accademia, che tra l'altro è uno spazio bellissimo, dinamico e ospita corsi di formazione di altissimo livello, anche perché loro sono partiti con una formazione professionale, adesso addirittura lasciano un titolo di laurea di primo livello ai loro studenti. E quindi l'unione dei due progetti è anche per sottoporre agli occhi degli allievi che sono orientati alla comunicazione per immagini delle opere sempre in evoluzione. Quindi la sede dell'Accademia diventa una specie di sede permanente per la collettiva, che subirà naturalmente nel tempo variazioni a seconda di volontà e anche di acquisti, naturalmente. Certo. Il momento di lunedì 17 prevede anche una tavola rotonda. Esatto, una tavola rotonda volta a far capire a curiosi e ad allievi come viene affrontato il lavoro dell'illustrazione, dalle prospettive più professionali alle prospettive più poetiche, se vogliamo dire, e quindi abbiamo organizzato un incontro e una discussione fra quattro rappresentanti di tecniche ed espressioni professionali, si direbbe diametralmente opposti, o forse sono una cosa incredibile per quanto sono differenti l'uno dagli altri. Sì. Senti, ci dai a questo punto tutti i riferimenti web del B17? Allora, B17 è disponibile naturalmente su Facebook con una lentissima comunicazione, mentre invece c'è una piattaforma online che è una galleria ed è b17illustrations.com, disponibile in due lingue con una selezione di opere in vendita. Naturalmente anche lì ci sono tutte le comunicazioni per eventi, novità, eccetera. Comunque anche tutti gli illustratori lì presenti, per quanto non ci siano tutte le opere sul sito, possono essere sempre richieste. Altre informazioni informazioni invece sull'Accademia, e l'Accademia si chiama Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie ed è ANT, e si trova in Piazza della Rovere a Roma, nel cuore della città. Verrà realizzato anche un catalogo della mostra? Non realizziamo un catalogo perché la mostra è in continua evoluzione, quindi al momento non è in programma. Ok. I riferimenti ce li hai dati, allora ricordiamo l'appuntamento di lunedì 17 dicembre con l'inizio della mostra collettiva permanente ma mutevole a Roma all'Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie, progetto B17 Illustrations. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Mariangela Salafia. Un abbraccio e un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie a te, buona serata, a presto, a lunedì.